festejado la sua libertà. Qué lindo hablar contigo, Mauricio. De verdad, bienvenido. Me da una felicidad poder hablar contigo, saberte libre con tu familia. Gracias, muchas gracias. Estuvimos mucho hablando de ti, mucha gente aquí supo tu historia, siguió mucho tu historia, así que de verdad, gracias por tu ejemplo de resistencia también. Ya, muy vale, muchas gracias. Igual quiero agradecer a toda la gente italiana ya que me apoyó a mí y a mi familia, que gracias por ustedes, igual que se sabió casi todo en todos lados, todo el mundo, igual Italia, de la reinstalación de los mapuches. Gracias por el apoyo y te agradecido. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que hacer y no nos paramos, ¿no? Ahora hay más que claro, que tenemos que sacar. Sí, Salto Mai, Peña. Sí, porque han alto compañeros privados de libertad, así que hay que seguir apoyándolo ahí, igual. Sí, bueno, eso. Hay que seguir en la lucha. Ya ahí San Antonio está caliente esos días por eso, así que usted gócese su libertad, su familia. Y vamos a seguir luchando juntos. Ya. Gracias, muchas gracias por el apoyo y por los saludos. Un abrazo gigante, Mauricio, a ti y a tu familia. Gracias. Chao, gracias. Allora, niente. Disfrute la playa. Chaito, gracias. Chao. Allora, niente, appunto, Maurizio ci ringrazia per l'appoggio che gli abbiamo dato, ringrazia tutti i compagni e le compagne italiane che sono state vicino a lui, che hanno fatto girare la sua storia a lungo e largo, insomma, è bello poter sentire un prigioniero libero anche, soprattutto dopo l'enorme montaggio che aveva subito Maurizio. Sì, ci ha chiesto di continuare ad appoggiare pure ovviamente ai prigionieri, oltre ai ringraziamenti alla rete qua in Italia e a tutti coloro che in Italia hanno espresso la solidarietà. Io non so se ci ascolta ancora, compañero, ¿nos estás escuchando? Sí, lo estoy escuchándolo. Bien, te quería preguntar, y ahora con la traducción de la pregunta aquí para quienes nos escuchan en Italia, ¿qué es lo que de tu historia vos podrías resaltar para justamente explicar a quien vive afuera, a quien no conoce tal vez la realidad chilena, ¿qué representó tu historia en cuanto a cómo justamente se maneja el Estado chileno en la represión, cómo se maneja el Estado chileno en cuanto a los procesos judiciales contra los compañeros y las compañeras? ¿Qué podrías hacer conocer vos o qué te viene en mente de hacer conocer para quien vive fuera de Chile, para quien tal vez no conoce tanto la historia y el contexto actual de Chile y se pueda dar una idea de lo que representa tu historia? Permitime que traduzco la pregunta y te dejo. Yo quiero esto, obviamente, cosa ci puoi raccontare de la sua historia, para quien no conoce el contexto chileno, per chi non conosce la realtà, per chi non sa cosa è vivere in questa situazione in Cile, cosa ci può raccontare della sua storia personale per far capire giustamente cosa rappresenta questa storia in questo contesto? Compañero, adelante. Io de lo che pasé, in mi caso fue un montaje. Yo fui acusato injustamente por una bomba monotón. Y los carabineros que se enseñaron conmigo, los carabineros aquí en Chile, ¿no? Por tener apellido mapuche, ¿no? Así. Me detuvieron a mí y por tener apellido indígena se enseñaron conmigo. Usted sabe que aquí a los mapuches no los quedan aquí en Chile y los carabineros. Certo, la cosa più che ci dice, più importante, sono le cose che abbiamo sottolineato, che lui è stato assolutamente vittima di un montaggio per una bomba Molotov, che è appunto quella di cui vi abbiamo raccontato, ma tutto questo è successo semplicemente per il suo cognome Mapuche, perché in Cile i carabinieri Mapuche non li vogliono da nessuna parte, fuori o dentro le città. Sì, un accanimento particolare. Un accanimento particolare per il suo cognome Mapuche. Mauricio, si quiere contar algo más, aquí aprovecha ese espacio porque somos felices, o si no, nos pasa la Jerry, como quieras. No, es que igual estoy como nervioso, igual, porque igual que ustedes me están hablando, igual estoy como feliz, igual, porque que sepan para allá, como, y agradecido, igual, porque que sepan todo, que puta, que muchas gracias. Y eso, Y a mi señora igual fue un apoyo muy muy grande para mí, pues, con mis cuatro hijas, porque es que te dejaron todo en la calle, sí, por uno, y eso, o sea, te agradece mucho por la lucha de mi familia igual, pues, y mi señora y mis cuatro hijas. Sí, pues son unas luchadoras, compañero, qué bueno. Oiga, disfrutar entonces, sí. ¿Se tiró algún piquero, no? En estos momentos. Sí, me he bañado todos los días con mi familia, con mi hija. Qué bien, qué bien. Y gracias a la Geraldita también, que lo invitó para acá. Tremenda esa, ¿eh? Vorrei tradurre, sí, perché questo tremendo, è importante, sì. Ha riconosciuto o ha segnalato l'importanza della famiglia, della sua famiglia, della sua famiglia, questo, oltre a ringraziare, diciamo, tutti i compagni, perché diceva è importantissimo, è un po' nervosito della situazione, felice, vuole godersi questa, certo, questa libertà, però riconosceva ovviamente l'appoggio della famiglia, che è importantissimo. Vorrei chiedergli al compagno giustamente cosa significa, stando in questa situazione, detenuto in Cile, sapere che c'è un appoggio, e non solo un appoggio fuori del carcere in Cile, ma anche internazionale. Compañero, ¿qué significa en esta situación, cuando uno está detenido, saber que están los compañeros y las compañeras, no solo afuera del cárcel en Chile, sino también, como vos agradecías, están los compañeros y las compañeras afuera de Chile? Digo, que hay una solidaridad internacional. ¿Qué significó esto para vos? ¿Cómo fue un apoyo, o cuánto fue importante para poder pasar este momento, además del apoyo importantísimo que señalabas de tu familia? Pues fue agradecido inmensamente por el apoyo, por ustedes, por las redes, que yo me metí al Facebook y que viera que salían fotos mías internacionales, y yo me sentía súper orgulloso igual, porque igual como que andaban, sabían todo el caso mío que yo era inocente, y agradecido, pues, contento por todo, por todas las redes, por todas las redes internacionales de los mapuches, y muchas gracias. Dale, entonces muchas ya no te quitamos, ya no te vamos a quitar más tiempo con tu familia. Ya. Te agradecemos nosotros de verdad por contarnos. Ya. Vaya, gózatela, sí, y tómate una chela con nosotros, que estamos ahí contigo, con ustedes. Ahora voy a tomarme una cerveza por ustedes ahora con... Dale, voy a tomarme una cerveza por ustedes. Claro, así. Así que un abrazo muy grande a todos, que disfrute, y nada, si me pasa la Jerry, vamos a seguir con ella. Y un abrazo. Facciamo el brindis internacional. Ya, compañera, ya visto que Luis. Gracias. Farà el brindis anche per noi, per la solidarietà espressa qua dalla rete in Italia. Gracias. Saluti. Saludos. Chao, sí, gracias, chao. Gracias. Saludos. Ciao. Bello ascoltare una persona contenta, no? Sì, dopo di quello che ha vissuto, cioè è bellissimo sentire una persona, un essere umano veramente, genuinamente ogni tanto far sentire contento. Un po' di libertà. E dobbiamo ricordare comunque perché è contento, sì, lui. E lui, dico, perché. Ah sì, perché comunque, insomma, questo popolo che si è mosso non abbandona nessuno. In questo caso c'è stata la popolazione della Victoria, anche, che si è sentita appunto vicina a Maurizio, nonostante Maurizio, insomma, quello era il quartiere dove era cresciuto, ma appunto tutto è successo in quel quartiere durante il quadro, sì, quello della rivolta, ma in particolare era un corteo per Camillo Catriglianca, insomma una serie di questioni che vi abbiamo raccontato, che insomma da una parte siamo felici di poter mettere nel passato per quanto riguarda Maurizio, dopo averlo sentito felice, libero, entusiasta, e con tutto che insomma sappiamo che c'è ancora da fare. Come dice Maurizio, io adesso continuerò questa lotta nonostante la mia sia finita, ma per tirare fuori tutti gli altri, perché come io ero innocente ci sono tanti altri innocenti che devono essere tirati fuori. Questo è bellissimo. Allora, insomma, è bello, credo, anche far sentire un po' di libertà di tanti prigionieri e di tanti, insomma, di tanta repressione di cui parliamo, invece anche celebrare ogni tanto che si riesce ad avere un po' di libertà, nonostante sia costato un prezzo molto caro a Maurizio. Ed è importantissimo sentire le persone, cioè, è importante sentire. Parliamo sempre di questi casi, li seguiamo, vi aggiorniamo permanentemente, ed è importante, lo facciamo sempre, si fa sempre qua alla Schiena del Soul, ma è importantissimo parlare con i protagonisti, soprattutto credo in queste situazioni dove almeno ce n'è una gioia, una. Esatto. Allora, non so se c'è Jerry adesso o se sta facendo il bagno al mare con la ciambella. Sì, ci sono. Ti sei tolta i braccioli? No, scherzo. No, io non faccio il bagno nell'acqua, lo facciamo solamente qua nella birra. Ok, detto questo, torniamo a noi. Ti sento veramente più carica di potenza che mai. Sono felice, questo è quando uno torna a casa sua, non c'è niente da fare. Allora, allora Jerry, sono contenta che tu stai festeggiando, che insomma che sei con la famiglia Ceuche, che si ritrova, questo è bellissimo. Indubbiamente la voce di Maurizio è una celebrazione della libertà molto bella, anche se non vogliamo dimenticare quanto il prezzo che sia, che è costata questa libertà. È una celebrazione della lotta, della resistenza, della vicinanza, ma bisogna continuare anche a ricordare il prezzo carissimo che ha pagato Maurizio, no? Credo. Mari Mari Gnagna, come va? Mari Mari, la mia, acá estamos en Cartagena, sì, del Chile. In Cartagena de Chile, va bene. Allora, Cartagena de Chile sarebbe San Antonio, e è un posto, sì, che voi, insomma, che chi ci ascolta ha sentito nominare, perché proprio nelle ultime, la scorsa settimana parlavamo dei prigionieri di San Antonio e parlavamo di Nelson Sangüesa. Come avete sentito, il giorno stesso abbiamo parlato col papà di Nelson, che ci diceva che il suo così che ahimè è stato ancora rimandato di un mese, è stata prolungata questa agonia della prigionia preventiva di Nelson Sangüesa. E il 16 sarebbe stato il giorno invece del processo dei prigionieri di San Antonio. Avevamo parlato anche con la cugina di Claudio, uno dei quattro prigionieri di San Antonio, ma poi le notizie sono state abbastanza tristi e devastanti, nel senso che non so se ce lo vuoi raccontare tu, che già Claudio ci aveva fatto sapere di avere dei sintomi tristemente simili a quelli del Covid. Infatti poi adesso lascio a te la parola. Credo di poter dire che i prigionieri di cui parliamo comunque stanno male, si sono ammalati, così come non so se tutto il braccio o addirittura gran parte del carcere. Raccontaci. Sì, sì, questa settimana diciamo che è stata una settimana molto di molte emozioni contrastanti, no? A partire dal lunedì, che lunedì riceviamo ufficialmente la notizia che i prigionieri del carcere di San Antonio, tra di loro i prigionieri politici, come sono i quattro compagni che sono incarcerati nel caso del PDI, che si chiama, erano c'era questo, diciamo, questi casi di Covid, questo è stato lunedì, stranamente un giorno prima del processo che iniziava martedì. E quindi per tutta una quantità di gente che si stava già mobilizzando per sostenere il processo di martedì, è stato un colpo molto molto forte, soprattutto per le famiglie che, come dice te, dopo un'agonia di quasi un anno aspettavano questa data come già il cammino verso la libertà. Si viene da dire anche che non pensiamo, e questo lo dico con la mia responsabilità e di chi sta all'interno del carcere, che questo il fatto che sia scoppiato un giorno prima del processo il Covid, non pensiamo che sia, non sia casuale, pensiamo che sia una premeditazione ancora una volta causata contro i prigionieri politici di San Antonio, perché già da 7-10 giorni che c'erano prigionieri con sintomi, gendarmeria lo sapeva, ma gendarmeria non ha fatto nulla, non ha fatto niente. Anzi, tra l'altro, scusa, non solo non ha fatto niente, però io so anche che una settimana fa, cioè giovedì scorso, quando già c'erano dei casi di persone che davano segni comunque in carcere di stare male, di avere comunque i sintomi, noi abbiamo ricevuto poi da Claudio una comunicazione subito dopo la trasmissione. Infatti poi l'abbiamo detto al microfono, non so chi ha continuato a sentire, che diciamo Claudio poi ha tutta questa situazione in più, nel senso che alcuni poi loro hanno anche denunciato le torture che hanno vissuto, no? Quindi hanno diciamo, oltre il peso di essere prigionieri politici della rivolta, hanno questa denuncia in più che hanno fatto, che pesa su di loro. E infatti giovedì scorso, quando noi abbiamo fatto la corrispondenza con la cugina di Claudio per parlare appunto dei detenuti dei prigionieri di San Antonio, un po' di tempo dopo appunto ci dicevano che un po' per rappresaglia erano stati fatti spogliare tutti, erano stati fatti mettere tutti in cortile, tutti, no, sì, i quattro, tutti insieme. no? E quindi tu sai che c'è un carcere dove ci sono delle persone malate, le fai mettere tutte insieme in cortile. Queste sono le provocazioni di cui stiamo parlando, no? Non pensiamo che vengono lì con la boccetta, non siamo queste persone che, no, che fanno ragionamenti fuori dal buon senso, ma io credo che quello che tu dici è su queste cose che si basa, no? Quindi sapere che ci sono il fatto stesso che Claudio si commenta che è da 11 mesi che loro sono all'interno del carcere, che già era scoppiata la pandemia a marzo, quando loro sono arrestati, e in 11 mesi non ci sono state mai delle misure sanitarie per affrontare il Covid all'interno del carcere, cioè adesso mai una mascherina, mai meno un distanziamento sociale, se lo possiamo immaginare all'interno di un carcere. E mai quindi mi dice questa scusa, volevo dire, e mai una concessione di arresti domiciliari, per esempio, no? E mai, appunto. Per cui diciamo che questa situazione viene già trascinata da tanto, perché anche lui mi commentava, ogni volta che arriva al carcere un prigioniero nuovo e viene sbattuto dentro, che non è stato fatto neanche controllo prima di entrare nel carcere. Non sappiamo che chi arriva in carcere sia un detenuto positivo o negativo al Covid, perché non c'è neanche un controllo, non c'è un controllo neanche con i propri gendarmi che sono in contatto con loro, un gendarme che va a casa, che esce dal carcere, che gira per strada. Solo che tutto questo viene da tanto tempo, invece scoppia, diciamo, miracolosamente lunedì di fronte a un giorno del processo. Oggi, alla fine, il processo è stato rinviato, come dice te, perché non ci sono le condizioni sanitarie, no, adesso, e è stato rinviato per il 5 aprile. Intanto, lo stesso giorno dopo, il gruppo legale di Prigionieri Politici di San Antonio ha fatto ricorso per chiedere le misure cautelari del domiciliare, di aspettare a casa questo 5 aprile, invece è stato negato totalmente, nel senso che non è stata accolta il ricorso, perché è inutile, cioè è impossibile, illogico pensare che i prigionieri possano fare una quarantena all'interno del carcere nelle condizioni che si trovano. Quindi diciamo, però da lì anche... quindi è stata negata per tutti e quattro i domiciliari? Allora, quello volevo dire, per tutte e quattro all'inizio era stata prima negata. Patrizio, che è quello che sempre ha fatto l'arresto domiciliario, continua a casa per motivi di salute. Invece dopo è venuto fuori che tra le altre tre, Claudio e Jorge possono optare all'arresto domiciliario in un reporto che si sta vedendo in questo momento, che lo devono fare gli avvocati tra 5 giorni. Invece purtroppo Giordano non ha avuto la possibilità di accedere all'appello di questo ricorso, perché è quello che è accusato pesantemente di omicidio contro un membro della polizia di investigazione. Quindi Giordano non avrà neanche accesso a questo appello in questi giorni, solamente Claudio e Jorge. Di questa risposta sicuramente hanno detto che si saprà settimana prossima, sarà davanti alla Corte Suprema al Tribunale Supremo di Valparaíso, però anche gli avvocati e le avvocatesse sono state molto chiare che non c'è molto da aspettare, perché quel tribunale lì all'interno ci sono dei personaggi che veramente non è che sono della parte del popolo come in tanti altri tribunali, quindi diciamo essere realisti che el appello se fa perché c'è la possibilità di farlo, però con i piedi per terra, le occhi aperte, che può essere che non sia una risposta positiva, però noi ce la giochiamo lo stesso, ovviamente. Certo, ogni possibilità, anche se veramente qui parlavamo prima del danno e la beffa, no? Cioè adesso i ragazzi, comunque alcuni di loro stanno male, diciamo, possiamo dire che hanno il Covid conclamato, quindi hanno la febbre, hanno mal di gola. La cosa allucinante, insomma, è aver aspettato questo punto. Adesso anche chi non può avere i domiciliari, rimandare un processo perché non ci sono le questioni sanitarie, e pensare cosa? Che questi compagni guariranno da soli? che cosa, cioè veramente è una cosa allucinante pensare che tu a chi darai domiciliari stai mandando a casa una persona che hai fatto ammalare comunque, perché no, di questo stiamo parlando, e quindi, e anche no, ci sarà tutta la difficoltà delle famiglie di gestire questa situazione, no, numero uno. No, e quello anche il nostro timore, perché esatto. E quello anche il nostro timore, perché oggi Claudio ci ha mandato un messaggio in cui le è stato consegnato il risultato del tampone e che loro sono positivi, quindi c'è la conferma ufficiale. Adesso io le ho chiesto, e allora cosa si fa? Se fa la cura? Sì, mi ha detto, adesso vediamo che tipo di cura si fa, perché già diciamo che parlando qua con compagni e compagne, con gente del Cile, mi dicono che la cura normale già per un cittadino normale quando sei positivo al Covid è il paracetamolo, basta. Quindi tu, capito? Allora, se pensiamo ancora di più in un contesto carcelario, io non mi posso immaginare che un paracetamolo ti possa curare in una situazione di affollamento, le condizioni igieniche, antigieniche in quale vivo, no? Il temore nostro che può arrivare quel 5 di aprile, le faranno un altro tampone i compagni e saranno ancora positivi e può saltare nuovamente la data del processo. Quindi è allucinante, perché ci sono sono delle contraddizioni che veramente non reggono. Sappiamo che le misure da quel giorno del lunedì che c'era già la conferma dei casi positivi, anche se questo lo sappiamo di prima, le misure sanitarie non si è attuato nessun protocollo. Claudio ci raccontava che l'unico protocollo che hanno fatto è davanti al cancello dove loro stanno come collettivo dei prigionieri, hanno messo una lamina di acciaio, sì. che solamente per isolare ancora di più della gente dell'esterno, della gendarmeria, tutto qua. Ieri mi ha detto che ha messo un'altra lamina, una seconda lamina lì davanti al cancello, e quella è la misura che hanno preso come misure sanitarie per quelli che sono contagiati in questo momento all'interno del carcere. Una persona che entra in tuta bianca e che fuori del carcere, che dentro del carcere le mette il cibo che già fa schifo, mi ha detto, e sono tutto il giorno lì tutti insieme. Quindi il temore è questo, che se veramente non si attuano le misure che loro hanno bisogno, a parte dell'aspetto della salute, che questa cosa del processo si può continuare a rimandare, che è una tortura tremenda per loro stessi, come una tortura tremenda a livello emozionale, morale per la famiglia, che io l'ho visto, perché io in questi giorni li ho conosciuto, sono state con loro, quindi sento e vedo qual è la tristezza, la rabbia di vedere un figlio innocente per lottare all'interno di un carcere in cui le condizioni sono quelle peggiori, e in cui ancora si continua a giocare, a manipolare la vita di questi ragazzi nelle condizioni che si trovano. Sì, tra l'altro appunto giovedì scorso la cugina di Maurizio ci raccontava un po' della condizione specifica di Maurizio, delle accuse anche qui, della costruzione che c'è stata, di chi è Maurizio, insomma, di chi è Claudio, di cosa faceva nella vita, insomma, di una persona che viene ritenuta pericolosa per la società nella misura in cui era uno che organizzava i gruppi per andare a pulire la spiaggia di San Antonio, insomma, un ragazzo pieno di passioni. Insomma, Maurizio prima, festeggiando la sua libertà, ci ha fatto capire bene che lui è stato preso per un montaggio, ma il montaggio è stato costruito perché lui aveva la colpa di un cognome mapuche. Claudio, gli altri compagni, insomma, queste sono le storie che girano intorno a questi ragazzi. Allora, sentire le accuse dei carabineros sembra una cosa enorme, quando poi sappiamo che queste accuse sono costruite veramente su dei castelli di carta che si reggono anche male, piuttosto storti, direi, insomma, basta appunto guardare come è stata poi smontata la condanna di Maurizio. Quello che sappiamo per certo è che però appunto questa è la dimostrazione di come la giustizia cilena ha un'organizzazione per cui tu comunque, prima di dimostrare la tua innocenza, dovrai pagare, semplicemente perché lo Stato ha deciso che tu di qualcosa sei nemico, comunque sei nemico mio, non so bene di che, quindi comunque ti farai questa detenzione preventiva, e in questo clima la detenzione preventiva di un anno, un anno e quattro mesi, che sappiamo spesso può arrivare per legge anche a due anni di detenzione preventiva, nella situazione attuale questo diventa una condanna perpetua, diventa una condanna da cui veramente adesso abbiamo tutte e tutte una gran paura. Veramente adesso il nostro pensiero saranno questi quattro ragazzi che già stanno pagando una condanna proprio con la propria vita, senza essere ancora stati giudicati per niente, e sapendo che tutto questo possibilmente è costruito su un castello d'aria, di nulla, sul nulla, se non il potere della giustizia, il potere sporco dello Stato, il potere appunto di uno Stato nemico che vuole il proprio popolo zitto e piegato. Perché, ripetiamo, Maurizio ci dice, così come la sua compagna, che ora loro sanno quale sarà il loro cammino, che loro questa storia gli è servita per capire che adesso Maurizio festeggerà, poi tornerà a casa e lotterà per tutte e tutti gli altri, e quindi questo è il nemico che lo Stato sta combattendo in questa maniera, devo dire, veramente meschina ed infame, perché vi stiamo parlando di una condizione da cui veramente, no, Jerry, abbiamo solo tanti punti interrogativi davanti e molta preoccupazione, credo, perché come vedi questa situazione, comunque ormai è una situazione un pezzo avanti e che ha già indirizzato queste vite, credo, nel peggiore dei modi, no? Sì, anche perché vedendo qua certe cose ci chiediamo come si possiamo confrontare veramente con lo che questo sistema chiama giustizia, perché per dire, Maurizio prima di partire da Santiago verso San Antonio, perché loro venivano a sostenere i ragazzi, i compagni di San Antonio, che dopo è saltato, però io comunque le ho detto che si volevano venire, io ero qua, e Maurizio si raccontava con Jocelyn che il giorno prima la PDI, la polizia di investigazione, si presenta a casa sua, perché loro faranno parte dell'investigazione come diritti umani, cioè, loro della PDI, che è veramente assurdo, è vergognoso che loro prenderanno in mano il caso di Maurizio e faranno tutta un'investigazione come diritti umani per tutto il danno che è stato causato a Maurizio. Lo stesso lo raccontava Claudio, che la PDI si è presentata nel carcere, questo si chiama caso PDI. Allora adesso spiego un attimo perché credo che se no PDI, chi ci ascolta se perde questo pezzo. La PDI è la polizia di investigazione, che è quella polizia che nella misura in cui tu c'hai un'accusa e vieni arrestato per la rivolta ti mette in galera, e la polizia di investigazione viene e comincia a indagare. È un corpo, diciamo, della polizia specifico. Qui lo fa sono le guardie specifiche, quindi PDI, polizia di investigazione. Che significa? Che quando appunto Maurizio Ceuche esce di galera e chiede tutta una riparazione, va avanti nel suo giudizio perché adesso vuole essere rimborsato per il danno che ha avuto, la gamba, le torture, le botte, i 14 mesi di detenzione dalla polizia che ha ricevuto dalla polizia di investigazione. Certo. Quindi che succede? Lui cerca di fare aprire un fascicolo rispetto a ciò che lui ha subito, e che succede? Che la polizia di investigazione, che è colei che viene accusata, va a casa sua e gli dice: ecco, adesso indagheremo per la violazione dei diritti umani che tu hai subito, da noi. Quindi chi fa l'inchiesta o l'investigazione su le torture l'indagato, in parole povere. Una magia giuridica. Esatto, questo è quello che succede a Maurizio, che adesso è libero. A Claudio che succede? Che Claudio denuncia, allora, se non sbaglio, come si chiama la carcere di San Antonio dove sta Claudio, della PDI, no? Sì. Ok, quindi adesso Claudio e gli altri quattro prigionieri nel carcere di Sant'Antonio, che si chiama PDI, ossia il carcere della polizia di investigazione, perché tu stai nelle mani della polizia di investigazione, loro in carcere. No, il carcere, che è sempre il carcere come tutto in Cile della gendarmeria. Della gendarmeria. Però il caso loro è stato denominato caso PDI, è conosciuto così perché loro hanno denunciato principalmente di aver attaccato, di aver spaccato i vetri. Non parliamo di un attacco terrorista, parliamo di aver spaccato i vetri. Allora Claudio mi dice: è venuta la PDI qua al carcere a dire che loro investigheranno. Loro vi investigheranno sul caso di cui noi siamo qua dentro, per loro, perché loro hanno fatto querelle e accusa contro di noi. La mamma di Claudio mi dice: io stavo lavorando e la PDI viene al mio lavoro, al mio negozio, perché dice: signora, siamo della PDI, volevamo sapere come sta il suo figlio in carcere. Ecco, no? Se non lo sanno loro che ce lo tengono. Ecco, di questo vi stiamo parlando, no? Quindi questa è la situazione, il quadro in cui si cerca giustizia, le persone da cui si cerca giustizia, che mi sembra che sia abbastanza chiaro. Detto questo, che iniziative ci sono? Tu sei lì a San Antonio, che cosa si muove? Io so che c'è stata una partita di calcio per loro, ho visto, insomma, tu ci informi quotidianamente, c'è la narrazione quotidiana di questo grande solidarietà del popolo che si è svegliato, che si è ribaltato e che si è rivoltato e che non lascia soli i propri prigionieri e le proprie prigioniere, no? Però allora volevo sapere, di fronte a questa situazione, adesso guardando in avanti, abbiamo questo ricorso degli avvocati che chiederanno appunto gli arresti domiciliari per due compagni che hanno, diciamo, la possibilità di richiedere, di fare ricorso, e poi così a livello anche intorno che succede, se ci vuoi raccontare un po'. Sì, diciamo che io sono qua a San Antonio con la coordinatrice dei prigionieri del porto di San Antonio, c'è anche il collettivo dei diritti umani autonomo di San Antonio, e sabato, per dire sport, si è fatto un'iniziativa benefit, perché c'è anche l'aspetto economico, che parliamo di quattro famiglie, e c'è anche adesso di pagare lo che sarà il processo, che costa molto di più che le situazioni legali che si sono affrontate prima come famiglia. Tutti i venerdì i compagni e compagne si organizzano per fare una manifestazione per tutta la città di San Antonio, e comunque in questi giorni, lunedì, siamo stati tutto il giorno in diversi presidi, fuori del carcere, fuori del tribunale, fuori della regione del San Antonio, perché si è un po' parlato che da qui al 5 di aprile dobbiamo essere più presenti di prima, prestare più di prima, non mollare, non stare in silenzio. Quindi ci stiamo organizzando in diversi modi. Tutti i giorni, perché non possiamo, diciamo, abbassare il profilo di questa situazione, anzi dovremo sicuramente parlare della situazione sanitaria all'interno del carcere per vedere anche in qual modo possiamo veramente fare qualcosa di concreto. Quindi queste cose si parleranno in questi giorni. Domani già c'è un'altra manifestazione nel centro della città di San Antonio, perché qua non saremo a guardare, non saremo zitti. Non saremo mai complici di quello che succede intorno alle istituzioni, le quali sono anche querelanti contro i compagni di San Antonio, come il sindaco di San Antonio, come la presidente della regione di San Antonio, che anche loro si sono querelati insieme alla PDI contro i compagni di prigionieri politici di questa città. Quindi ci sono, diciamo, tante iniziative. C'è tanta voglia di sostenere questi ragazzi, perché veramente questa situazione non può andare avanti così. Continueremo a lottare per questa libertà. È stato molto doloroso che il processo non si abbia fatto martedì. Confermiamo e pensiamo che questo è stato, diciamo, un fatto premeditato, non crediamo che sia stato casuale. Approfitto anche, Marta, di dare i saluti e ringraziamento soprattutto di Claudio, che ringrazia sempre alla rete in difesa del popolo Mapuche, compagni e compagne dell'Italia che hanno seguito il caso dei compagni di prigionieri politici di San Antonio, per visibilizzare a livello anche internazionale cosa succede non solamente con loro, sino con tutti i prigionieri politici della rivolta in Cile. Gerry, veramente io ti ringrazio, così, insomma, come sempre siamo tra così festeggiamenti per la gioia della libertà, ma anche rimaniamo anche noi coi piedi per terra e viralizzeremo la storia di questi compagni del carcere di San Antonio, che credo che sia, ahimè, un caso emblematico anche di tutto quello che sta succedendo nelle carceri intorno, perché appunto poi il popolo in carcere, questo Covid uccide i poveri, e niente, torniamo a ripetere le stesse infami parole di sempre. Però appunto chiudo questa telefonata con te con una certa inquietudine che ci porteremo fino alla settimana prossima, anche se non ci basterà che vadano i domiciliari, perché questa cosa che stanno male, noi sappiamo di chi è la colpa, come sempre sappiamo chi è il colpevole, sappiamo chi è voluto arrivare a questo punto. Io ti chiedo solo di abbracciare tutti quelli che puoi da parte nostra di ricordarli che ci siamo, perché insomma anche Maurizio ci ha raccontato di quanto è importante sapere che la propria storia arriva così lontano, sì, che c'è qualcuno che ti pensa, quanta motivazione dà stando lì dentro, tanto più insomma quando le uniche misure per la tua salute sono delle lamine di metallo che ti tagliano ancora più da fuori. E saluti e salute per la tua mamma anche. E come... grazie. Ancora non la vedo, la vedo sabato perché sono stata in quarantena, ieri mi ha fatto il tampone e quindi sabato finalmente la posso riabbracciare. Pure io voglio fare la quarantena al mare a San Antonio. Pure io voglio fare la quarantena al mare a San Antonio. Sì, da. Io comunque mi sono scappata perché io non resisto chiusa in casa, quindi comunque non esiste, sono cose, uscita. Niente, sta in Cile, l'importante è che sta in Cile. Scherzo, stiamo dando un pessimo esempio. Comunque sì, va bene. Un saluto a Picunmapu, un saluto ahí al territorio lafkenche rebelde. Grazie, sì, qua siamo tutti abbracciati nella stessa lotta. Dico a Marta, visto che sono parte di questa rete, che lunedì quando ho visto a Maurizio per la prima volta, il mio pianto, il mio abbraccio è stato anche per voi, per tutta la rete che è famosa in Italia, perché è stata una grande emozione abbracciare a Maurizio, la sua famiglia, Libertà, perché sempre lo scrivo, tra il dolore, la rabbia, l'impotenza, di tanto abuso di potere, di giustizia, abbiamo questi belli regali che sono un regalo bellissimo, penso, nelle nostre vite, no? L'amicizia, certo, l'amore rivoluzionario, perché veramente è una cosa che è indescrivibile, che penso che sia il regalo più vero di quella, la mia felicità. E lo stesso aspetto, e penso che aspettiamo per i compagni di San Antonio di abbracciarli qua fuori. Sì, infatti, veramente. Questo è quello che vogliamo, ma insomma siamo coi piedi per terra, sappiamo quello che dobbiamo fare. Io ti abbraccio, Gerico, di la tua terra, tanto insomma abbracci. È come se stessi qua praticamente. Sì, però c'è lì. Gnagnita, ti abbraccio forte. Cialtumai, grazie mille di tutti i compagni, forza, coraggio, grazie veramente di tutto. Ciao Cagliel. Ciao bella, a presto, ciao. Salutaci. Ciao, ciao, grazie. Saluti. Grazie, abbracci. Ecco, insomma, brutto, scusate, insomma, tanta gioia, tanta felicità, ma io ho tanta rabbia adesso, perché poi Claudio è un personaggio particolare, insomma, per esempio Claudio ogni tanto riesce a scrivere sui social, se volete cercare Claudio, bravo Capello, io ve lo consiglio. Prima che noi andiamo un attimo a sentire un po' di musica, io volevo ricordare un'altra cosa, sì, per chiudere così l'argomento. Dai. Prigionieri della rivolta, appunto, abbiamo nominato anche Nelson Sangüesa, abbiamo parlato con Don Nelson, suo papà, giovedì scorso, insomma incredibile, un uomo, insomma un compagno, devo dire, forte, e ci diceva che anche questa volta, anche per Nelson è stato rimandato il processo. E allora tra le iniziative che ci sono fuori per fare compagnia ai prigionieri e alle prigioniere c'è, è partita questa carta Spara Nelson Sangüesa, e non ve lo direi perché certo non vi direi qui di mettervi a pena, ma insomma si tratta di mandargli una mail, e quindi insomma vi vogliamo dare la mail, perché casomai vi viene voglia di mandare a Nelson una mail di 2 righe e mezzo in italiano, perché tanto si capisce, con scritto: ciao Nelson, ho sentito questa storia da una radio indipendente, la tua storia da una radio a Roma, ho saputo la tua storia, sono con te. E io credo che invece è una botta di energia per Nelson, che anche lui ha una situazione orribile e devo dire è abbastanza sfiancato, è l'unico prigioniero di Curicó, quindi è da solo come prigioniero della rivolta. Ha un'accusa molto pesante delle persone che si sono assunte, dei proprietari, dei padroncini ricchi e borghesi che si sono assunti di essere parte civile, che chiedono proprio con convinzione anni e anni di galera. E la mail si può mandare a Libertad para Nelson, scritto tutto attaccato in spagnolo, Libertad para Nelson, @ protonmail.com. Perfetto, parlavamo prima l'importanza veramente di sentire da fuori piccoli segnali che ci costano 5 minuti e che gesto danno umano, invece semplicemente tanto. Quello. Questo dicendo che appunto non è che dovete scrivere solo a Nelson Sangüesa, intraprendere credo dei rapporti con personaggi che sono con persone che sono dentro, senza sapere che insomma aprire anche insomma qui noi abbiamo tanti scambi di lettere, tante volte ci siamo chiesti come fare compagnia, come essere più vicini, di un'agenda, come essere ancora più vicini. E allora, insomma, questo si fa per Nelson Sanguesa, ma poi, insomma, penso che chiunque è privato della propria libertà e riceve una lettera da fuori è felice, no? Però anche questa telefonata, chiamare e parlare in diretta con Maurizio Cevchi, che abbiamo parlato tante volte, era un prigioniero in montagna, adesso è libertà nella spiaggia, in questa estate cilena, sì, bella calduccia. Una canzone con así con forza. Dai, eh. La retirada 2008, Agarrate Catalina. Dai. Este es el comienzo de mi viaje. Es el final de mi camino. No llevo prisa ni equipaje. Solo sé. Para viajar, navegar, siempre navegar sobre el cielo azul. Soltarle y empañarle la victoria, balas atropelladas, un minuto de memoria, toda mi madrugada, nueve lunas, mil botellas, una muchacha pobre que un día fue mi doncella, el patio de mi infancia, mi ventana, todo el cielo, las manos de mi padre protegiéndome del mundo entero. Solo esperando mi tren, me arrancan de mi camino, mi sombra quemándose gota por gota, pálida, única, el miedo de la nada, la esperanza de un sendero, la sangre de mi sangre despidiéndome del mundo entero. Con el alma buena y el abrazo cálido, amores de miradas limpias y de sueños ávidos, millones de carcajadas empapadas de alcohol, canciones a quemarropa derrotando al dolor, segundo de felicidad felicidad y tres o cuatro lágrimas. Sobrevivientes, náufragos, inquilinos, somos la sombra heroica de lo que fuimos. Fuimos peleando tercos como pudimos. Esta batalla inútil contra el destino. Llevo un juramento sin jurar, llevo una oración sin terminar. El dolor de no ser nada más y mi testamento sin firmar. Nada tuve, nada dejé, mi pobreza ya me la gasté. Si hoy tengo una flor en el ojal, es para dejarla en el final. Si he de morir, que me muera de tanto vivir, con la furia de la tempestad, incendiándome el alma al partir. Si he de partir, que me parta la vida un amor, y transforme mis huesos en flor, en algún carnaval. Y todo lo que fui lo dejo en el adiós, viviendo en el lugar de lo que soy. Y lo que quise ser detrás de este telón apenas fue una efímera ilusión. Ya se siente la luz en el final. Agradezco porque llegué hasta acá, escapando a la muerte. Uruguay, Uruguay. Larghita, come vedete, insomma, l'avevamo detto, durano questa i suoi bei 10 minuti. Però degli esempi della murga uruguayana abbiamo messo, delle chicche veramente che per chi non conosce, non conosceva, veramente che ha avuto la possibilità di ascoltare belli esempi. En este tablado de la humanidad se termina el viaje de la Catalina y otro. E dunque 18, 48 minuti ancora, la Eschina del Sol, 87,9, no, anzi, la Eschina del Sol, come tutti i giovedì, sì, dalle 17, sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. Perfetto. Un po' larghito. Ma che mi avevi detto? Scusa. Gli 87,9 la Eschina del Sol, anzi fa. No, vabbè, insomma, no, mo perché. Bene, comunque, bene, bene Marta. Sì, e poi i soldi li devono dare a Onda Rossa, quindi facciamo anche questa parentesina. Bene, sempre. Perché qui, mo, dico, adesso... torniamo a dirvi che appunto ognuno a modo nostro, lo sapete, questa radio, il serio, il meno serio, la musica, gli approfondimenti, di tutto e di più, effettivamente avete una mail ondarossa@ondarossa.info, proponeteci, criticateci, scriveteci, perché noi piamo tutto, lo piamo veramente, lo leggiamo, siamo un po' così folli, però lo facciamo ancora perché ci crediamo, crediamo in una radio libera, aperta, in cui appunto, no, si fa insieme questa radio, sicuramente qui c'è qualcuno, ci sono le riunioni, c'è un'assemblea aperta comunque dove appunto poi ci si può vedere, ci si può vedere in faccia. Chiaramente, casomai resti tempi, chiamateci prima, perché non perché non siamo più aperti, ma perché casomai protocolli, se qua già eccetera. Siamo in quattro, scendo io, sì, oppure ci faccio scendere un altro e salite voi, perché comunque stiamo così, sì, qui sì, non ce la rischiamo, ci prendiamo protocolli. Cura, ecco, ci prendiamo cura. Comunque, come sapete, una radio che vive senza padroni, senza padrini, senza pubblicità, e appunto vive un po' come un'esperienza che chi ci crede gli dà una mano. Gli dà una mano come? Non ci sono le lobby che ci pagano, non ci sono i fantasmi, gli scheletri negli armadi dietro ai capi redattori, perché non ci sono capi redattori. Ci sta un'esperienza libera, sicuramente particolare, sicuramente con un sacco di pieghe e dei buchi, però credo che ecco, è la macchina più ecologica di tutte, non sarà una Jaguar, ma guarda come però va avanti ancora, e però non campa l'aria, e quindi questo confronto che propone la radio, veramente nel confrontarsi, nel fare in questo senso la radio insieme. E io vi posso dire, se vi serve, diciamo, lo sguardo da lontano, un'altra prospettiva, nella radio nella quale collaboravo io in Argentina, collaboro tuttora, diciamo, ogni volta che posso farlo, FM in Transito della città di Castellare, anche Radio Compagna, però dobbiamo dire, per la forma di lavorare che ci avevamo noi, c'era, no, il filtro per le telefonate, per esempio. Questo viene al caso per farvi capire, a voi che ascoltate da anni, che siete ascoltatori e ascoltatrici storici forse di Radio Onda Rossa, la logica di questa radio veramente aperta, sapete, senza nessun filtro, si va in diretta, si può dire, ognuno può dire la sua, e c'è questa possibilità che non è scontata anche nelle radio compagne organizzate di una forma diversa. Preferiscono, per motivi anche validi, preferiscono di fare quel filtro, così un compagno pure può rispondere a quella telefonata e dopo decidere o no di mandarla in diretta. Radio Onda Rossa invece ha deciso, per storia, per tradizione, per decisione, per coerenza, eccetera, eccetera, di permettere sempre questo. Quella partecipazione c'è sempre, dal semplice trilino, no? Il pane, il trilino. Direi, il pane di ogni trasmissione. Geniale. Perché, sì, invenzione geniale di Radio Onda Rossa, un codice stabilito tra Radio Onda Rossa e gli ascoltatori e le ascoltatrici, che è di una forma molto semplice, molto banale anche, direi, ma importante comunque, fa capire la possibilità di partecipare, di fare Radio Onda Rossa, come quando... Ti ricordi, Marta, prima del Covid c'erano le serate, eppure lì si poteva fare parte di Radio Onda Rossa partecipando, facendo parte di quella comunità, di quella famiglia, almeno io mi sono avvicinato pure di quella forma, le serate che ancora si facevano nel 2017, nel 2018, nel 2019. Come fa piangere. Non volevo fare questo, cercavo di ricordarlo con saudaggi, come dicono i brasiliani, e non con nostalgia, solo per questo, e anche quello era far parte di Radio Onda Rossa. Comunque, non si campa d'aria, quindi nella vostra misura, in quanto potete, dateci soldi. Sì, veramente un piccolo sforzo da parte di ognuno e di ognuna. Se non volete fare il bollettino, ci venite a portare. Che c'è qualcuno? Quanti siete? Ma posso salire un attimo? Ve lascio 3 euro? Va bene, abbiamo la cassettina grigia. Qui c'è la cassettina grigia. Noi manchi li tocchiamo, voi piate, li mettete là. È bello questo, perché secondo me, appunto, non so quanti altri posti conoscete, ma non lo dico per fare la coatta o per fare i coatti o per fare le coatte o i coatu, ma perché credo che siamo veramente un po' una rarità. E quindi cascateci. Chi ci ha appena conosciuto, se andasse a fare gli affari nostri su www.ondarossa.info, dove oltre al palinsesto, gli aggiornamenti, le notizie redazionali, i podcast delle trasmissioni, c'avete la storia, il vecchio sito, i video di Alfio Di Bella, cioè una quantità di cose per capire chi siamo, che vengono veramente da 40 e rotti anni di storia. Già che ci siamo, volevo dirlo perché mi è venuto subito ora in mente, ho ascoltato la trasmissione su Radio Cap domenica scorsa, esatto. Ho ascoltato un materiale fichissimo di Radio Onda Rossa, riascoltatelo, perché racconto un pezzo di storia, a me ha fatto capire tanto di quello che ancora mi mancava. Conosco ovviamente quella storia, mi sono permesso di fare qualche riflessione al ricordo su Genova settimane fa, però interessantissimo, perché anche venendo del mondo della radio cooperativa, compagnia, eccetera eccetera, in Argentina, fa capire come ci stanno altre logiche, altre storie, altre forme da fare, di un'epoca che ancora io in Argentina nemmeno vivevo, nel 2001 era un ragazzino di 17-18 anni, non ancora interessato in queste cose, però non con tutta questa esperienza. Quindi era interessante vedere i compagni, ascoltare i compagni che hanno vissuto quella storia, che hanno fatto quella storia con Radio Cap, come si organizzavano, ovviamente il lavoro che ci viene dal linguaggio alla messa in onda, sì, cioè un lavoro enorme. Io che sono veramente appassionato della radiofonia, era interessantissimo ascoltare come è stata fatta questa esperienza, quindi lo volevo dire, e andate a riascoltare sicuramente il podcast che c'è nel sito di Radio Onda Rossa. Sì, tra l'altro ricordo che appunto questa è stata solo una di un ciclo che andrà, di cui vi avviseremo insomma una volta al mese, quindi insomma anche incuriositevi, perché di Genova c'è veramente tanto tanto tanto da dire, perché a questo punto lo metto con un punto interrogativo: ma Genova è finita? Punto interrogativo, secondo me no, però ecco, rimaniamo con questo punto interrogativo. Io ce l'ho un cumbietto, tu ce l'hai? Sì, ho 2, 3, 4, 5. Dai, posso mettere questo? Così la metto una pure io. Cioè, dai, ormai una volta era una discesa. Una volta.